Siamo con Marco Belpoliti, scrittore, critico letterario italianista e professore di critica letteraria appunto all'Università di Bergamo. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Quando è entrato in contatto con l'opera di Calvino e cosa originariamente l'aveva interessata della sua letteratura? Il contatto è quello scolastico, nel senso che Calvino ha cominciato a scrivere nel 1947, io sono nato nel 1954, quindi ho conosciuto Calvino alle scuole medie inferiori attraverso Arcovaldo, e poi è proseguito nella lettura dei suoi libri, anche perché entravano in casa mia letti dai miei genitori, anche libri come Le Cosmicomiche o Ticon Zero, che io ho trovato tra i libri di mio padre e di mia madre, e quindi è stato, diciamo, uno sviluppo, una progressione, ecco. Poi negli anni 70-80 alcuni libri sono diventati particolarmente importanti per me, anche quando frequentavo l'università, e poi soprattutto l'ultimo pezzo dell'esperienza, insomma, letteraria e umana di Calvino, cioè gli anni 80, con libri come La collezione di sabbia, Paloma, sono stati molto molto importanti, perché hanno aperto delle prospettive, almeno per me, insomma, diciamo, di lettura della realtà attraverso la letteratura. Calvino appunto è conosciuto principalmente per i suoi romanzi, ma è stato in realtà uno scrittore abbastanza prolifico anche di saggi, citavo appunto Collezione di sabbia e Racconti brevi. C'è un aspetto di Calvino, secondo lei, una caratteristica, un testo che è poco conosciuto, che invece è fondamentale per capire la sua produzione? La cosa che oggi penso sia la più interessante di Calvino è quella che lui non ha potuto terminare, e che tuttavia ci sono gli elementi per entrare in questa specie di laboratorio di Calvino. Intendo l'autobiografia, un'autobiografia senza io, cioè Calvino ha cominciato già negli anni 60 a scrivere una serie di testi che poi è andato, come dire, rubricando in uno dei tanti suoi foglietti come parte dell'indice di un possibile libro che si doveva chiamare Passaggi obbligati. Mi riferisco alla strada di San Giovanni, sicuramente uno di questi, o testi dedicati ad esempio all'uso dei cappelli fatto da Mussolini nel corso del ventennio fascista, cioè il passaggio, diciamo così, dalla tuba di primo ministro all'elmetto della seconda guerra mondiale. Sono tutti testi in cui Calvino ripercorreva la sua carriera, diciamo così, sia umana, politica e letteraria, illustrando qualcosa che secondo me era molto interessante. Le tracce ci sono appunto in due libri, uno si chiama La strada di San Giovanni, l'altro si chiama Eremita a Parigi, sono due libri pubblicati dei postumi dalla Mondadori che sono poco conosciuti. E poi direi l'altro libro che Calvino aveva portato fino alle bozze, ma poi all'inizio degli anni 60 decise di non pubblicarlo, che si intitola Un ottimista in America, che è uscito anche questo postumo. Sono libri che fanno vedere come l'attività letteraria di Calvino sia intrecciata strettamente con un'attività, possiamo dire, politica, nel senso che c'è una lettura continua e molto importante della società italiana, della nostra storia. Non dimentichiamoci che Calvino è stato partigiano, è stato comunista fino al 1957, è uscito dal Partito Comunista durante i fatti di Ungheria, l'invasione dei caramati sovietici in Ungheria, ma ha sempre continuato a occuparsi di società, ecco, e scrivendo molti, molti testi sui giornali. Cioè c'è un'attività giornalistica di Calvino che secondo me è ancora da scoprire. Nell'occhio di Calvino, tra l'altro, ha scritto appunto che Calvino è il nome che ha in Italia, e non solo in Italia, una forma di cultura fondata sull'interdisciplina, sulla comunicazione dei saperi, una cultura che non rinuncia al suo rapporto con la politica, ma trae alimento dal suo continuo confronto con la realtà e cerca per quanto possibile di immaginare soluzioni a problemi che vadano al di là del presente. E questo appunto anche non solo nella produzione saggistica, ma anche giornalistica. Secondo lei è ancora possibile ed esiste oggi in Italia questa forma o modo di intendere la cultura? Io penso di sì, nel senso che c'è una generazione di scrittori della mia età e soprattutto più giovani, cioè penso scrittori che stanno tra i 35 e i 45, 50 anni, che hanno avuto come maestri diretti ed indiretti autori come Sciascia, Pasolini, Calvino e altri, insomma Manganelli, ecco un altro nome, o lo stesso Goffredo Parisi, che sono tutti autori che hanno vissuto con grande intensità il dopoguerra e si sono sempre occupati della realtà scrivendo sui giornali. Molte di queste cose sono trasmigate nei siti dei siti culturali che sono tanti, molto diversi, però con una vocazione, diciamo, occuparsi del presente, insomma, voglio dire, il tema della democrazia, il tema dell'antifascismo, il tema della giustizia sociale ed economica, il tema del cambiamento climatico, quindi i temi che una volta andavano sotto l'etichetta di ecologia. Certo è che allora c'era un feedback molto stretto tra i lettori e questi autori. Questo feedback passava attraverso i giornali principalmente, ma anche la radio, la televisione. Oggi la nostra società è diventata pulviscolare, cioè si è, creata una serie di nicchie tra di loro confinanti, ma spesso diverse. Ciascuno di noi coltiva in modo intensivo campi tra di loro che non sono sempre unificati. Faccio un esempio banale, insomma, dalla cucina ai fiori, dalla politica all'antifascismo, dal problema del gender a problemi che sono il colore o altre cose. Tutti questi settori, queste attenzioni, queste curiosità non hanno oggi un collante unico, cioè un luogo dove vanno a finire tutte insieme. Quindi questa parcellizzazione della società, il fatto che siamo degli atomi, ecco, che fluttuiamo liberamente nell'aria come parte di un sistema più grande, riduce la possibilità di intervenire in modo complessivo, con una visione unitaria del mondo che non c'è più. E a proposito di occuparsi del presente, tra l'altro Calvino tornava spesso sul tema del sacrificio, usandolo anche come chiave di lettura della politica italiana negli anni 60 e 70. Il ciclo di vita e di morte politica dei governanti era valutato da lui come un requisito fondamentale della democrazia, e oggi in realtà la fortuna dei politici ha una vita decisamente più breve. Secondo lei vale ancora la riflessione calviniana sul sacrificio del capo per alimentare la vita democratica? Ormai tutto viene sacrificato sull'altare della attualità, con una velocità pazzesca, e bisogna dire che una delle cose che ci tortura mentalmente, psicologicamente, è il fatto che niente dura per sempre. C'è questa velocità introdotta ovviamente dalla tecnologia, dall'ultima rivoluzione informatica e da quella che si prepara con l'intelligenza artificiale, che fa sì che la tendenza delle persone sia ambivalente. Da un lato c'è il desiderio di durare per sempre, e anche i politici ce l'hanno, di diventare, dei re o dei piccoli dittatori, o insomma persone che comandano senza avere niente che li possa mettere in discussione intorno, il fastidio del dibattito, del confronto e anche di un conflitto che lascia, nessuno vincitore, come dovrebbe essere il conflitto nella democrazia. Da un lato c'è il desiderio di essere per sempre, anche l'allungamento della vita, la medicina, le cure, eccetera. La pandemia è piombata lì in mezzo, creando un grande sconcerto. Dall'altro c'è il fatto che è un sistema sociale, economico, politico, comunicativo che va velocissimo. Io credo che Calvino, se fosse ancora qui con noi, ripenserebbe un po' tutte queste cose. Tutto il contrario di Come imparare ad essere morto del signor Palomar, tra l'altro. Beh, sì, quello è un Calvino particolare, è un Calvino dell'ultimo periodo, che si era reso conto dopo il 68, dopo l'incontro con Celati, Ginsburg e altri, intendo Carlo Ginsburg, lo storico, Guido Neri, eccetera, si era reso conto che non c'era più uno schema per leggere la complessità del mondo, che tutto andava abbastanza in frantumi. E dall'altro lato il fatto che, come Celati, uno di questi scrittori, ma anche Manganelli, ha reso evidente il fatto che siamo tutti dei migranti, non solo in senso spaziale attraverso il Mediterraneo, scappando dall'Africa o dalle terre asiatiche in crisi per venire nell'Occidente più sicuro e più economicamente sostenibile, ma siamo tutti dei migranti all'interno della nostra stessa vita, ecco, c'è una migrazione continua. Questo, in un uomo molto compatto e molto costruito, anche se pieno di dubbi come Calvino, creava dei problemi, ecco, e quindi poi con l'età si sa, dopo i 60, che cominciano i patemi d'animo della vecchiaia, e Calvino aveva saltato completamente l'età adulta, si era trovato nell'età, della vecchiaia, saggio, pieno di cultura, di idee, ma senza più una bussola, e quindi un carattere pessimistico emergeva in lui, ma sempre in modo molto problematico. Ecco, c'è una frase di Calvino che ho pescato non so più dove, non riesco più a trovarla, me la chiedono dove l'ha presa. La frase recita più o meno così: giorni di catastrofe sono i giorni in cui non succede nulla. È una perfetta chiave di lettura di Calvino stesso, cioè abbiamo bisogno della catastrofe perché siamo abituati ai piccoli e continui traumi. Dall'altro, il non succedere nulla è la morte. Pensare, insomma, come il signor Palomar che si immagina di essere morto. Grazie mille, professore. Volevo dire una cosa, ci tengo moltissimo, io ho curato questo libro che si chiama Guardare di Calvino. È un volume di Calvino di 650 pagine con raccolte cose che non sono mai state raccolte. È uscito, io ho scritto 100 pagine di prefazione, ovviamente è l'applicazione a Calvino facendo un'antologia di quello che c'era scritto nell'Occhio di Calvino, con in più una cosa che non avevo trattato allora perché mi sembrava un po' fuori dalle mie corde, e che è il cinema, su cui Calvino ha scritto dal 1941 al 1985. Mi piacerebbe che arrivasse anche ad altri. È uscito da Mondadori, la collana che si chiama Oscar Baobab.